Vorrei aiutare l'usura a orientarsi con un piccolo quizzetto tra destra e sinistra. Allora, iniziamo con una cosa facile facile. Una sera a cena, con chi la passeresti? Con la russa o con Lerner? Ah, Con la Lerner, prova. russa, per... Lerner, perché Lerner che è troppo... No, la russa, perché Lerner è sicuramente una persona molto interessante, però con la russa mi diverto di più. Bene, La bene, verità. iniziamo bene. Tra l'altro, la russa ha aperto all'esercito per i gay, una cosa nuovissima questa qua. Al cinema vai a vedere un film di Nanni Moretti o l'ultimo film di Christian De Sica? No, Nanni Moretti. Non... Ma che delusione, però, Nanni Moretti invece di lo Christian. so, però No, scherzo, guarda, scherzo. non è il tipo di comicità che mi piace, ti dico la verità. Allora, Sanremo o il concerto del 1º maggio? Il concerto del 1º maggio, perché lì sotto al palco ci si sfrega gli uni con gli altri ed è più eccitante. Mentre a Addirittura, Sanremo siamo tutti seduti in balsamata. oppure in televisione. Invece, il 1º maggio uno può stare lì, In no? piazza In piazza. direttamente, sì. Vabbè, insomma, in un collegio ci sono due candidati, Gianfranco Fini e Veltroni. Chi voti? Devo essere sincera. Sì, è certo. Oggi come oggi Fini, perché con Veltroni ho il dente avvelenato, la questione di quando disse corriamo da soli, che fece subito capire che eravamo alla crisi e tutta la storia del voto utile, ovviamente Fini, ha... Fini, no, sei stata chiarissima. Se dovessi scegliere due giornali, no? Il primo che sfogli, da una parte c'è chi, dall'altra parte c'è il fatto. Cosa leggi per primo? Di la verità, la Leggo verità, la la verità. verità. Leggo chi perché... Il quotidiano Il Fatto mi macchia il polpastrello d'inchiostro. Beh, questa è fantastica e concludo. È pronta per essere candidata nel centrodestra, perché le domande sono chiarissime, un po' bilanciate, però più pendenti verso il centrodestra. Ma noi scherziamo. Grazie, grazie a Vladimir Ursula, buona serata.